Ad alta voce, Elia Shilton legge I miei premi, di Thomas Bernard. Traduzione di Elisabetta Dell'Anna Ciancia. Terza puntata. Il premio letterario della libera città anseatica di Brema. Dopo che per 5 anni non avevo scritto nemmeno una riga e poi nel giro di un anno, il 1962, avevo finito a Vienna Gelo, il mio futuro era più sconsolato che mai. Mandai Gelo a un amico, redattore della casa editrice Insel, e 3 giorni più tardi il manoscritto venne accettato. Ma quando ormai era accettato, mi accorsi che l'opera era incompiuta e non la si poteva pubblicare in quella stesura inadeguata. In una pensione di Francoforte, che si trovava su una delle strade più trafficate della città, nei pressi della torre di Eisenheim, ed era una delle più economiche che potessi permettermi, riscrissi l'intero libro. Tutti i capitoli di Gelo, preceduti da un titolo, li ho scritti in quella pensione di Francoforte. Mi alzavo la mattina alle 5 e mi sedevo al tavolino davanti alla finestra, e quando a mezzogiorno avevo finito di scrivere 5, 8, addirittura 10 pagine, correvo a portarle alla mia redattrice alla Insel e discutevo con lei in quale punto del manoscritto quelle pagine andassero inserite. Tutto il libro si era totalmente trasformato in quelle settimane a Francoforte. Molte pagine, probabilmente circa un centinaio, le avevo buttate via, e così alla fine risultava accettabile, mi parve, e potei andare in composizione. Quando le bozze furono pronte, ero in viaggio per Varsavia, dove andavo a trovare un'amica che studiava lì all'Accademia di Belle Arti. Presi alloggio nel periodo più freddo dell'anno, nella cosiddetta Gekanka, un pensionato studentesco proprio accanto al Palazzo del Governo. Girai per settimane nella bella, eccitante e inquietante città di Varsavia e lessi le bozze. A mezzogiorno mangiavo nel cosiddetto circolo degli scrittori e la sera in quello degli attori, dove il cibo era ancora migliore. Trascorsi a Varsavia uno dei miei periodi più felici. Avevo sempre con me le bozze nella tasca del cappotto. Il mio interlocutore era il satirico Letts, che scriveva i suoi celebri aforismi nel libro di ricette della moglie e che spesso mi invitava a casa sua e qualche volta mi pagava anche un caffè sulla Novi Sviat. Ero soddisfatto del mio libro, che uscì nella primavera del 63, accompagnato da una recensione a tutta pagina di Zuckmayer sulla Zeit. Ma passata la tempesta delle recensioni, di straordinaria violenza e assolutamente discorde, dalle lodi più imbarazzanti alla più malevola stroncatura, mi ritrovai di colpo distrutto e come caduto in una spaventosa fossa senza speranze. Credetti di dover morire soffocato dall'equivoco che la letteratura fosse la mia salvezza. Non volevo più saperne della letteratura. Non mi aveva reso felice, bensì buttato dentro quella fossa soffocante e fetida dalla quale non c'è più scampo, questo pensavo. Maledissi la letteratura e l'averci fornicato assieme. Girai per alcuni cantieri e mi feci ingaggiare come camionista dalla ditta Christophorus, con sede in Klosterneuburgerstrasse. Per mesi ho trasportato birra per il famoso birrificio Gösse. In quel modo ho imparato non solo a guidare molto bene i camion, ma anche a conoscere in ogni suo angolo la città di Vienna ancor meglio di quanto già non la conoscessi. Abitavo da mia zia e mi guadagnavo da vivere come camionista. Della letteratura non volevo più saperne. Io le avevo dato in pasto tutto quello che possedevo e in cambio mi aveva buttato dentro quella fossa. Mi nauseava la letteratura, odiavo tutti gli editori e tutte le case editrici e tutti i libri. Mi pareva che nello scrivere Gelo fossi stato vittima di un colossale inganno. Ero felice quando con il mio giaccone di pelle mi lasciavo cadere sul sedile di guida e attraversavo rombando la città con il mio vecchio Steyr. Ora si vedeva quanto fosse stato utile anni addietro imparare a guidare i camion, requisito essenziale per un posto di lavoro in Africa che a quel tempo volevo ottenere, ma di cui poi, per circostanze decisamente fortunate, oggi lo so, non si era fatto più nulla. Ma, come naturale, anche la felicità di poter servire da autista al birrificio Gösser ebbe fine. Tutto a un tratto odiai il mio lavoro e lo lasciai da un giorno all'altro per nascondermi sotto le coperte del mio stanzino in casa della zia. Lei aveva capito il mio stato d'animo perché un giorno mi invitò a trascorrere qualche mese in montagna in sua compagnia. A tutti e due avrebbe fatto bene scrollarci di dosso per qualche mese l'assoluta ferocia e nocività della metropoli e affidarci alla natura, disse. La sua meta era Sankt Veit, nel Salisburghese, quel luogo non lontano dal sanatorio in cui ero stato ricoverato per anni, a 800 metri di altitudine e quindi in posizione quanto mai ideale, ci avrebbe rigenerati, disse. Una mattina di buon'ora mia zia e io, suo accompagnatore non pagante, iniziammo dalla stazione ovest il nostro viaggio verso i monti. Ma c'è bisogno di dire che già all'uscita del treno dalla stazione ovest maledissi la campagna e rimpiansi la città di Vienna. Più il treno si allontanava da Vienna, più diventavo triste. Sto facendo un errore a voltare le spalle a Vienna e andarmene in campagna con la zia, pensavo, ma è un errore che non posso più correggere. Non sono un campagnolo, sono un uomo di città, mi dicevo, ma non potevo tornare indietro. Come naturale, non trovai la felicità in campagna. La gente mi annoiava, anzi ne avevo orrore. La natura mi annoiava e ne avevo orrore. Cominciai a odiare la gente e la natura. Ero diventato un rimuginatore malinconico che andava su e giù per i prati e tra un prato e l'altro e camminava nei boschi a testa bassa e che finì col rifiutare qualsiasi cibo. Così la mia segreta avversione per la vita agreste ed alta quota mi aveva condotto dritto dritto alla catastrofe. Ormai ero soltanto una penosissima caricatura di me stesso, incatenato alla più spaventosa infelicità esistenziale, quando giunse il premio letterario della libera città anseatica di Brema. Non fu il premio in sé a salvarmi dalla catastrofe del mio stato d'animo, anzi, della mia esistenza, bensì il pensiero che con quella somma di 10.000 marchi avrei potuto riagguantare la mia vita, imprimerle una svolta radicale, renderla di nuovo possibile. Il premio era ufficialmente annunciato, il suo ammontare mi era noto, avevo la possibilità di fare di quel denaro l'uso più saggio. Da sempre desideravo avere una casa tutta per me e se non proprio una vera casa, almeno quattro muri tra cui poter fare quello che volevo, in cui potermi rinchiudere. Così pensai, con il denaro del premio mi procurerò quei quattro muri. E presi contatto con un mediatore immobiliare che subito mi fece visita a Sankt Veit e mi propose alcuni immobili. Naturalmente tutti quegli immobili erano troppo cari. Una volta che avessi riscosso il premio avrei avuto in mano solo una frazione del prezzo d'acquisto. Ma perché no, pensai. E concordai con il mediatore un incontro ai primi di gennaio in Alta Austria, dove lui era di casa e aveva sotto mano diversi immobili. Da propormi aveva per lo più vecchie masserie in parte già in rovina, disse, tutte tra i 100.000 e i 200.000 scellini. Il mio premio però ammontava a soli 70.000 scellini. Forse li trovo già per 70.000, i quattro muri adatti a me tra cui potermi rinchiudere, mi dissi. Non mi figuravo una casa quando pensavo un immobile per me. Mi figuravo dei muri, e precisamente dei muri tra cui potessi rinchiudermi. Mi misi in viaggio per l'Alta Austria. Mia zia venne con me e andammo a trovare il mediatore. L'uomo aveva fatto colpo su di me. Mi era piaciuto subito. Era in gamba e il suo carattere mi pareva ineccepibile. Arrivammo in un paesaggio coperto da metri di neve e raggiungemmo con passo pesante la casa del mediatore. Lui ci fece salire sulla sua auto e, mostrandoci un foglietto, ci spiegò dove si trovassero gli immobili da visitare e quale sarebbe stato il nostro itinerario da un immobile all'altro. In totale aveva segnato sul suo foglietto circa 11 o 12 fattorie che erano in vendita. Chiuse le portiere e il nostro giro di ricognizione ebbe inizio. Nel frattempo era già calata sul paesaggio una fitta nebbia e noi non vedevamo nulla, nemmeno la strada lungo la quale il mediatore ci portava al primo immobile. Lui stesso non vedeva davanti a sé nient'altro che nebbia, ma conosceva la strada e ci fidammo. Mia zia era curiosa quanto me, entrambi tacevamo. Io non sapevo che cosa passasse a lei per la testa. Lei non sapeva che cosa passasse a me per la mia. Il mediatore non sapeva che cosa passasse per la testa a entrambi. Non disse una parola, tutto a un tratto fermò l'auto e ci comunicò che dovevamo scendere. In effetti, vidi davanti a me nella nebbia un muro gigantesco fatto di grossi blocchi di pietra. Il mediatore aprì un grande portone di legno scardinato ed entrammo in una vasta corte. Anche nella corte c'erano metri di neve. Dava l'impressione che i proprietari dell'immobile lo avessero abbandonato in fretta e furia, piantando lì tutto. I proprietari sono stati colpiti da una grave disgrazia, pensai. L'immobile era disabitato da un anno, disse il mediatore, e ci precedette. Di ogni stanza in cui entrammo dissi che era una stanza di straordinaria bellezza e a più riprese pronunciò anche le due parole «eccellenti proporzioni» e non lo disturbò minimamente che a ogni passo sfondasse uno di quei pavimenti marci e dovesse salvarsi con un abile balzo dalle profondità del marciume. Il mediatore ci precedeva, dietro di lui venivo io e dietro di me la zia. Percorrevamo le stanze come camminando su passerelle, come se dovessimo attraversare un torbido pantano puzzolente. Ogni tanto mi voltavo a guardare la zia, che però era molto agile, più agile di me e del mediatore. C'erano da visitare 11 o 12 stanze, tutte in stato di totale abbandono, e nell'aria ristagnava l'odore di centinaia, se non così pensai, migliaia di vecchi topi e ratti stecchiti. Tutti i pavimenti erano completamente marci, putrefatti, e i davanzali delle finestre erano per lo più divelti dalle intemperie. Da basso in cucina, dove c'era un grande fornello smaltato, unto e bisunto e tutto arrugginito, il rubinetto non era stato chiuso e l'acqua si riversava sopra e sotto il pavimento. E il mediatore disse che i proprietari, lasciando la casa l'anno prima, si erano dimenticati di chiudere il rubinetto e andò all'acquaio e chiuse il rubinetto. Lui stesso non aveva ancora visitato l'immobile. Noi eravamo i primi a cui lo mostrava, disse, ed era incantato da quelle proporzioni straordinariamente felici. Mia zia si teneva un fazzoletto davanti alla bocca per sopportare il fetore che regnava nell'immobile. E non solo per il lezzo di marciume. Nelle stalle c'erano ancora dappertutto enormi mucchi di letame che i proprietari non avevano sgomberato. Di continuo il mediatore parlava di proporzioni straordinarie e più lui ripeteva questa constatazione, più mi convincevo che aveva ragione. Alla fine non fu più lui, fu io a dire che l'immobile aveva proporzioni straordinarie e lo dicevo ogni momento, addirittura mi esaltavo a pronunciare a intervalli sempre più brevi le parole proporzioni straordinarie e alla fine ero persuaso che tutto l'immobile aveva davvero proporzioni assolutamente straordinarie. Da un momento all'altro ero invasato da quell'immobile e quando fummo di nuovo davanti al portone per andare a visitare l'immobile successivo e il mediatore cominciò ad affrettarsi perché ci aspettavano ancora 10 o 12 immobili da visitare. Dissi che tutti gli altri immobili non mi interessavano più. Avevo già trovato quello che faceva al caso mio ed era proprio questo. Aveva infatti proporzioni assolutamente straordinarie, ideali per me, ed ero pronto a stipulare subito con lui il relativo contratto. Fra questa mia dichiarazione e l'inizio della visita non era trascorso più di un quarto d'ora. Mia zia si spaventò, mi disse di non fare sciocchezze. Lei quei quattro muri li trovava orribili, come naturale. E quando fummo di nuovo in auto per tornare alla casa del mediatore a stendere il contratto, continuò a ripetermi, seduta alle mie spalle, che dovevo riflettere a fondo sull'intera faccenda. Dormirci sopra dovevo, così diceva. Ma la mia decisione era presa. Avevo trovato i miei quattro muri. Proposi al mediatore di versare un acconto di 70.000 scellini a fine gennaio, dunque dopo la consegna del premio a Brema, e di saldare il resto nel corso dell'anno. Quel resto era pur sempre una somma di oltre 150.000 scellini e, benché non sapessi minimamente dove avrei preso il denaro, io non me ne preoccupavo affatto. Riflettere. Dormirci sopra, continuava a ripetere mia zia, mentre il mediatore immobiliare già stendeva il contratto. A me piaceva il modo di fare del mediatore. Mi piaceva come scriveva, quello che diceva, tutto ciò che lo circondava. Quanto a me, mi comportavo come se il denaro non avesse importanza. Questo impressionò il mediatore mentre in cucina sua moglie ci preparava delle deliziose uova strapazzate. Mezz'ora dopo aver visto Natal, così si chiamavano i miei quattro muri, dopo averli visti per la prima volta e nemmeno tanto bene, dal momento che, come ho detto, erano totalmente immersi nella nebbia, senza contare che di quanto li circondava, dunque del paesaggio, non avevo visto proprio nulla e avevo potuto solo azzardare qualche congettura, firmai il cosiddetto contratto preliminare. Mangiammo le uova strapazzate e conversammo ancora per qualche tempo con il mediatore e poi ci congedammo, ci accompagnò alla stazione e noi prendemmo il treno per tornare in montagna. In effetti, devo ammettere che in quel viaggio, durante il quale mia zia, in preda a spaventosi presentimenti, non sprecò più nemmeno una parola, cominciò a venirmi la cosiddetta pelle di cappone. Solo adesso consideravo tutto a un tratto che cosa davvero fosse successo, in che situazione mi fossi cacciato, perché, come è naturale, mi ero cacciato in una situazione terribile. Trascorsi una sfilza di notti insonni in cui, com'è naturale, non riuscivo a capacitarmi di cosa davvero avessi fatto e firmato, né a figurarmi dove avrei mai preso i cosiddetti restanti 150.000 scellini. Ma il giorno della premiazione a Brema verrà e allora avrò in mano la prima rata di 70.000 scellini e sarò salvo, pensai. Mia zia si astenne da qualsiasi commento. Per la prima volta nella mia convivenza con lei non avevo dato retta a un suo consiglio. Thank you. Elia Shilton ha letto I miei premi di Thomas Bernard. Traduzione di Elisabetta Dell'Anna Ciancia. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara D'Ambros. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.